Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La Zanzara. Ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Caro Parenzo, tu sapevi dell'esistenza di un movimento che si chiama Cristiano Popolari? Scusami? I Cristiano Popolari. Tutti lei li trova, signor Cruciani, tutti lei? Beh, i Cristiano Popolari di Mario Baccini, te lo ricordi? Ah, come sì? No, signor Baccini, che è parente del Baccini il cantante, no? No, è un vecchio politico democristiano, signor che Baccini. Poi è andato nel centrodestra, è stato anche sottosegretario degli esteri, se non sbaglio. Sì, se lo ricordano tutti i leader mondiali, infatti. Adesso non prenda subito in giro il signor Baccini. No, signor Baccini. Il quale ha fatto una sorta di incontro a Milano, se non sbaglio. A Milano o a Roma, non so, ma non è importante. A Milano, mi confermano a Milano. E però si è trattato di una sorta di ripetizione dell'esperienza Samorì. Ti ricordi quello degli anziani? Ah, anche lì hanno deportato pullman di anziani. No, che anziani, ma comunque mi accorgo che lei, dottor Parenzo, non ha letto praticamente nulla, né sui siti né sulla notizia, ma questo qua però, adesso considerato fa parte della normalità. Però mi scusi, signor Cruciani, ma considerare notizia l'evento del signor Baccini? No, ma non è una notizia, ma senti che cosa dicono alcune delle persone là convocate. Mi hanno portato qua, non so cosa dobbiamo fare. Come? Chi l'ha portata? Scusa. Siamo venuti con un pullman. Un pullman da dove? Da Lonate Pozzolo. Da? Da Lonate Pozzolo. E non sapete cosa siete venuti a fare? Sapete? Conferenza, c'è una conferenza. Cosa vi hanno detto? Ancora non mi hanno detto niente, ma adesso dobbiamo andare su. Vi dicono dove siete? Eh? Vi dicono dove siete? Come dove siamo? Non lo so, se non sa, lo sa lei dove siamo. E adesso, ma siamo a Milano, qua una conferenza devono fare, non lo so cosa devono fare. Ma avete pagato qualcosa per niente? Ma hai capito o no? Aspetta, non è finita, senti. Perché ha deciso di essere qua oggi? Non lo so. Come non lo sa? Chi l'ha portato, scusi? È arrivato in pullman? Sì, in pullman. Da? Da Lonate. Lonate Pozzuolo, anche lei. E sa che è una convention di un partito, questo, Cristiano Popolare? Sì, sì. Conosce, sa chi è il leader? Non so niente. Ma come non sai niente? Sei lì a sentire il signor Baccini, non sai nulla! Poveracci! Questi qua sono stati trasportati, chissà cosa gli hanno detto. Ma come hanno fatto? È un'organizzazione meravigliosa questa. Ma certo, per riempire un palazzetto, per riempire una sala, per riempire un tendone, portano un sacco di persone, magari dicono andiamo a fare una scampagnata, c'è magari un pranzo, si pagano 2 lire e si reclutano della gente. Senti, una roba meravigliosa. Senti ancora. Perché da Lonate Pozzolo, che insomma è lontano, fino a Milano per sentire? Per il nostro partito. È il suo partito, lo si riconosce. Qual è il leader che le piace di più di Cristiano? E non lo so neanche. Sta arrivando Baccini. Come chi è il leader dei Cristiano Popolari? Lei non è venuta a sentire. Sì, ma non me lo ricordo adesso in questo momento. Beh, siamo al top qui, siamo al top. Addirittura c'è gente venuta da Corleone, ma sentiremo tutto più avanti. I Cristiano Popolari, da non confondere con i Cristiano Riformisti, Poi sono i Cristiano Sociali anche. Sì, c'è stato di tutto nella storia. Sì. Questa è la Zanzara, 800240024. C'è una frase che è una delle frasi di oggi, che è una frase su cui non si può scherzare troppo alla maniera nostra, no? Che è una frase pronunciata, che sarebbe stata pronunciata da Claudio Scajola davanti ad alcuni coordinatori del Partito Ligure. Questo che non lo hanno, non lo hanno appoggiato durante le sue peripezie. Scajola avrebbe detto a questi signori: so tutto di voi, per gli incarichi istituzionali che rivestivo o guidato i servizi, conosco i vostri segreti. Questo è grave. ma non ho mai utilizzato le vicende delicate che vi riguardano contro di voi. Ma tu ti rendi conto o no? Ma io, infatti, questa mi sembrava la cosa importante del giorno, no? Questo gruppo di anziani portati in giro per tutte le cose. No, questa è una cosa pazzesca, questa è una cosa vergognosa. Ferrara ha scatenato. Ma non ha mai smentito, questo è il punto, fino ad oggi. C'è tempo. Ma Ferrara ha scatenato. Ma non lo so, c'è tempo. Ferrara ha scatenato. Senti come se la piglia durante la serata delle primarie del Partito Democratico che hanno incoronato Bersani, se la prende con i grillini, con Grillo, eccetera. Nello speciale. In primis con Casaleggio, senti. Chi se ne frega di dov'era lo speciale? Sentiamo. Io non ho capito le cose, ma Casaleggio voi l'avete visto? Perché il punto poi è questo, la fisionomica è importante. Se, ma io l'ho visto se Aldo Cazzullo dice che bisogna rassicurare la gente, allora basta, certo, se Mentana fa sempre vedere quello che nuota al costretto di Messina o fa dei meravigliosi comizi d'attore comico, è finita, perché gli fai prendere il 30%. Ma non è che allora devi vedere Casaleggio tutte le sere. Tutte le sere al TG5, voglio Casaleggio. No, TG5, scusi, TG6. Sì, ma sono sicuro che riuscirai a ottenerlo al TG5. Casaleggio. E ve lo auguro. No, però, ti prego, Casaleggio. Quello che ti voglio dire è. Fai vedere Casaleggio! E così altro che 30%. Crollano, secondo Ferrara. Ma perché ha assomigliato ad Angelo Branduardi? Beh sì, devo dire che se uno facesse vedere ogni sera Casaleggio, qualche consenso si potrebbe anche perdere, insomma, no? Però perché fare vedere ogni sera Casaleggio, insomma? Ferrara! Qui sbaglia però quando dice Grillo come Saviano è una fregnaccia inventata dai media. Adesso, insomma, fregnaccia inventata dai media, no, perché poi non è che i media, no, possono creare tutto. Ma infatti ne parlate troppo di Grillo. Io, secondo me, Grillo è tre colonne in cronaca. Invece ne avete fatto l'eroe Garibaldi. Ti ripeto, Garibaldina. Giuliano, in democrazia. Ma non esiste Grillo. Vedete, le percentuali sono. Se quinto. Un partito ha virtualmente il 15, 17, 20%, non è che possiamo dire. È come no, Saviano. È un comico, non è che cioè, c'è. Siamo il paese di Alessandro Manzoni, stiamo sempre a parlare di Saviano. Insomma, Saviano, posso, Grillo, cioè, sono tutte fregnacce inventate dai media. Alessandro Manzoni si rifiuta di partecipare ai programmi. Quindi sopra i pattini a rotelle come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo e ti sei trovato giù. Siamo al top qui, siamo al top della comicità, perché ormai Ferrara è sempre lucidissimo, naturalmente, ognuno ha le proprie idee, però regala perle. Ferrara perle. Pur di sostenere tesi impossibili, prende la palla e se la porta via durante la partita. Va bene, Renzi, battutona di Renzi, forse la migliore, ho fatto qualcosa di sinistra, ho perso e così si chiude il cerchio delle primarie. Comunque la battuta più carina l'ho letta su Twitter, sai cosa mi hanno scritto? Mi è arrivato un commento appena ho fatto il mio messaggio e mi hanno detto, dice, finalmente Renzi ha fatto una cosa di sinistra, ha perso. Ecco, queste sono la battuta più cattiva, me l'hanno fatta su Twitter, ho fatto anch'io una cosa di sinistra. E per chiudere, che c'è già un ospite che frigge, Emilio Fede al processo Rubi. Beh, qui siamo al top, qui siamo al top, perché Emilio Fede ha tirato fuori il meglio di sé, non so, però insomma ci andiamo vicini. Rubi ballava facendo palloncini con la gomma, aveva un cattivo odore, anzi ho detto nelle intercettazioni che aveva un cattivo odore, non so se lo voglio riconfermare, sentiamo. Ho visto ballare la danza del ventre vestitissima. Devo dire in maniera non gradevole, perché aveva la gomma americana e faceva le bollicine. Io l'ho trovata brutta. Non mi sento di dire che ho detto di una ragazza che aveva cattivo odore. Ora ti fa male un dito e il dottore ha detto già, basta fare una. Il resto di Fede dopo. Intanto è con noi il mitologico, inarrivabile, amico tuo Parenzo, ho visto che sbevazzavate l'altra volta. Oliviero Toscani, buonasera. Ah, buonasera. Come andiamo? Meraviglia. Sono amico di Parenzo. Beh, amico, insomma, ormai siete compagni d'avventura in più occasioni. Alla sette, Vorrebbe sapere, Crociani, cosa abbiamo fatto a Parenzo. Che avete fatto? Lui vorrebbe sapere. Avete bevuto e dopo? No, dopo? Non si è andato a letto. Radio. Sei andato a letto. Poi Sgarbi diventa geloso, che sono della gente che invece non è come lui. Insomma, vabbè, lasciamo. Cioè, che c'è gente, lei dice. No, è normale. Certo, vabbè, gente normale. Ma Sgarbi, un po' di tempo non lo sento. Beh, ha detto che è stato dappertutto, da quando è incessato parla, fa andare quel braccio più di prima. Sì, ma soprattutto ci insulta più non posso. Cioè, magari ha ragione. Ovunque va, insulta noi. Ormai ovunque vai insulta Cruciani e Parenzo. Perché dite la verità. Oliviero? Dimmi. Hai visto Sallusti ai domiciliari? Hai visto Sallustri? L'ho visto, sì, povero Sallustri ai domiciliari. Ma perché lo chiami Sallustri? Ma mi piace chiamarlo Sallustri perché c'è qualcosa di lustro, lo so io. Mi piace chiamarlo Sallustri, scusa, Cruciani. Ma scusa, ma è giusto secondo te? Oppure No, io trovo che non va messo in galera, è sicuro. Perché ci costa. Ma come per ci la gente costa? In galera ci costa. Perché doveva pagare per Sallustri, pagargli una guardia, niente. Sallustri deve pagare una multa, finito. E poi? Deve pagare, questi soldi possono essere utili a qualcosa. Basta, solo quello. A migliorare le scuole di giornalismo, per esempio. Anche lui dovrebbe riscriversi alla scuola di giornalismo, no? No, no, dico questo, è tardi ormai, ma ormai è questo, Sallustri e Sallustri, cioè sì. Tenerselo così, è anche diventato un personaggio, no? Sì, beh certo. Però io penso non va messo assolutamente, no, ma come principio un giornalista non va messo in prigione. Vabbè, no, quello lo dicono tutti, sì, certo. Porta via dello spazio, sicuramente sì. Non è un buon esempio per gli altri carcerati. Perché? Perché di no? Perché dà il brutto cattivo esempio. Il giornalista è come un portinaio, deve fare il portinaio. Come il portinaio, scusami? I giornalisti sono in realtà dei portinai, che sono in questi modi. Cioè, cosa sarebbe giusto farlo? Cosa sarebbe giusto fare, secondo te, con Salvini? Pagare una multa e questi soldi qui devono andare in opera di bene. E poi? Basta? Basta, finito. Basta, un po' di lavori. Aiutare qualche bambino da qualche parte. Ci sono tante organizzazioni... di volontariato, aiuti del volontariato. Ma lui non vuole fare, non vuole fare i lavori. No, mandi, dia i soldi. A chi? Deve pagare a un'organizzazione sociale giusta. Cioè dia dei soldi in beneficenza, dice lei. Beneficenza, sì. Si prendano dei soldi a comunque Sallustri. Può continuare a lavorare, sembra. Sì, anzi, deve continuare a scrivere perché per me è molto importante cosa scrive Sallustri perché è veramente l'opposto di quello che io penso. Io non leggo quello che scrivono quelli che la pensano come me, sì. Non ho bisogno. Comunque la Santanchè si è arrabbiata moltissimo per la questione dell'ironia sulla casa, i 900 metri quadrati, eccetera, eccetera. Ha ragione, perché uno non può avere una casa di 900 metri quadri, scusa. Lei quanto ce l'ha grande la casa? Si vede che una che corre, si fa rincorrere, ha bisogno di spazio. Ma come si fa rincorrere? Non so, dico, per una casa grande si scorre dietro, no? Non so, girerà in bicicletta. Dentro la casa, dice lei? Sì. Ma lei quanto ce l'ha grande? Quanto no, la mia casa non è grandissima, ma lo spazio attorno io. Ah, lei ha lo spazio dei giardini, c'ho i cani, tutto questo roba qua. Ah, i cani. Io in campagna, ragazzi, sì. È vita dura in campagna. Beh, ma insomma, la sua tenuta ci sarà sono una... Ci sono i topi, ci sono scarafaggi, sono ma adesso, non la dipinga come una sorta di, no, di... No, che dipingo niente, no? Sto benissimo, ho deciso di vivere in campagna, ma... non vivo in una città. Scusi, mi dica la verità però, quanto lo sopporta lei Sallusti? Poco? Quando lo vede in televisione? No, ma Sallustri mi fa anche un po' pena, poverino. Perché? Perché sì, ce la mette tutta con la sua R Moscia, ce la mette tutta, ma poretto non è... Non è che? No, non è giornalismo come dovrebbe essere. Le zanzare di casa. Poveracci questi qua reclutati non si sa da chi, probabilmente da qualche scherano, da qualche scagnozzo, si è detto con leggerezza e si è detto con il massimo rispetto del signor Baccini e trasportati questi anziani, questi signori in pullman alla convention dei cristiano popolari, cristiano popolare, voglio sentirne altri che dicono siamo venuti da Corleone, sentiamo, da Corleone. Arriviamo da Corleone. Arriviamo. Da Corleone è arrivato. Arriviamo da Corleone. Sì, sì. Ma come da Corleone? Come siete arrivati qui qua? Siamo venuti con l'aereo fino a Malpensa e poi da Malpensa. Voi avete speso tutti questi soldi solo per... Sì, certo. Abbiamo trovato il biglietto a poche prezzi. Ce l'ha pagato il popolo cristiano. L'hanno pagato il cristiano popolare. Sì, sì. No, oh, dire queste cose. Vabbè, questi lo sapevano però, Ce l'ha pagato, così ha detto? Il cristiano popolare. No, questi lo sapevano da chi erano stati pagati, su. Sì, ne prendiamo io, ma non è che gli interessasse il convegno, probabilmente. Guidai i servizi su tutto di voi. Ancora mi sconvolge questa frase di Scaiola. Mi sconvolge, Bersani ormai si sente a Palazzo Chigi, Toscani? Ma Ma Bersani penso di sì, non è che lui sia lui una persona serissima, stiamo parlando di una persona seria. Cioè, sì. Devo dire sono molto contento che alla fine abbia una persona seria. Purtroppo ha dietro questo partito che l'ha un po' castrato ultimamente, però adesso lui è molto più forte, credo che riuscirà a liberarsi da tutti, da tutti i vari. Ma perché non fa? Perché non fa qualcosa con Grillo lei? Io con Grillo? Magari si candida. Cioè. Ma siete matti, candidati, ma siete matti. Perché? Perché devo lavorare, io non posso tutto il tempo a fare niente. Poi guadagnano poco in Parlamento, secondo me. A candidarsi a qualcosa, che Sgarbi vuole candidarsi, ma io non ho tempo. Rispetto... Cioè, tu dici che chi non fa un cazzo si candida praticamente. Appunto, chi non sa fare niente soprattutto. Chi non sa ma anche Grillini allora. Non so, ma tanti di loro almeno sanno far andare il computer. Adesso fanno le parlamentarie, presentano il loro profilo su YouTube. No? Vedrai anche Sgarbi, manderai il curriculum lì anche Sgarbi. No. Ma Sgarbi non sa, non conosce, non sa far funzionare il computer. No? Veramente? No, poco. Beh sì, lo vedo sempre con un vecchio telefonino, sai, di quelli vecchi, sì, vecchia, pure lei è Toscani, non è che deve essere un, da questo punto di vista mi sa che non è. No ragazzi, io faccio il fotografo, per me la tecnologia è una cosa normale, bambino, Cioè? Le digitali e tutto è roba, io cioè è roba che mastica seriamente? Sì, devo dire di sì. Ma secondo lei chi ci va in Parlamento? In Parlamento ci vanno solo quelli che proprio non hanno nulla da fare la mattina alla sera, cioè la gente che lavora. Ma un po' sì, da noi sì, purtroppo sì, non abbiamo questa grande qualità di parlamentari, c'è tutta gente che così non ha mai brillato nella. Perché posizione. Renzi ha perso, secondo lei? Renzi ha perso perché. Perché era un po' voleva fare un po' una rivoluzione e noi non siamo un paese di rivoluzioni, c'è da fare. La sua era un po' una proposta rivoluzionaria in un certo senso, quindi mandare a casa tanta gente, giustissimo, fare delle cose giustissime che però in Italia non si possono fare. Siamo l'unico paese al mondo che non ha mai fatto una rivoluzione e non la faremo mai. Comunque sa che può essere graziato Sallusti alla fine? Ma perfetto, deve essere graziato, poveretto. Graziato vuol dire che riceverà un po' di grazie. No, riceverà la grazia di Napolitano. Sarà grazioso. Beh, adesso mica è brutto, signor Sallusti, su. Brutto, dice lei? No, non so, io non è che sia... Non ho mai pensato a Sallusti bello brutto. Ma è una bella maschera, un teschio, no? Un Catelese, bello brutto. Quell'altro, il suo collega, bello brutto. Porro, dice. Porro fa un po' l'italico, no? Vabbè, Porro non è male, su. Porro, sì, va bene. Beh, piace Porro, eh? Sì, eh. Devo mandarlo a Sgarbi, forse a lui piacciono gli uomini. No, secondo me no, quello no, quello no. Secondo lei sì? No, no, ma... No. Una battuta, ma Sgarbi si ride. Quando si dice queste robe qui, lui si incassa, ma alla fine gode di queste cose. Sì, beh, certo che gode, non c'è dubbio. Abbiamo capito tutti, no? Sì. Sgarbi è diventato il nostro materasso. Sì. Gode come un pazzo di queste cose. Gode come un pazzo. Basta parlare di lui. Comunque l'importante è che può continuare a lavorare Sallusti in questo momento, no? Ma è logico, deve continuare a scrivere, perché sennò come facciamo poi per avere il senso della misura? Vabbè, adesso lei è ironico, lo piglia per il culo, su. No, ma io, no, l'unica cosa che così... di Sallusti non mi va bene è tante volte una mancanza di precisione. Io da giornalista quello un sacco di persone, la precisione è un rigore della notizia. Non mi interessa l'oggettività. Poi uno può avere il suo punto di vista, ma mica è da mandare ai lavori forzati allora. Appunto. O no? Fare giornalista è un lavoro forzato, tante volte fare giornalista è un lavoro forzato. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo. E imbroglia non scioglie la riserva. Devo dire che... Che succede? No, c'è una battaglia tra bambini. Devo mettere su un film. C'è una guerra tra bambini in corso. C'è una guerra tra bambini in corso, dunque? Adesso ti faccio vedere quello che ha detto Bersani ieri, va bene Margherita? No, questo! Bersani no? Non vuole Bersani. Intanto mandiamo i titoli del TG3, scene penose, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Bersani, dopo la vittoria, ora il governo per il cambiamento. Il lavoro al primo posto, imposta sui grandi patrimoni immobiliari. Con Renzi siamo uno squadrone. Il sindaco di Firenze darà una mano da militante e da sindaco le scelte spettano al vincitore. Vendola con le primarie è archiviata l'agenda Monti. Tutto da decidere nel PDL su primarie e leadership, ma il ritorno di Berlusconi divide il partito. Alemanno avverte sarebbe irrazionale e improponibile. Incontro a Lione, Hollande Monti. La TAV è un'opera strategica, i lavori andranno avanti, basta rinvii. Fuori dal vertice tensione tra polizia e manifestanti. Lo spread tra i titoli italiani e tedeschi torna sotto la soglia dei 300 punti e Milano corre. La Grecia lancia l'offerta sui titoli per tagliare i debiti. Benedetto XVI sbarca con un suo profilo su Twitter. In poche ore più di 100.000 followers sul social network. L'account del Papa naturalmente è Chiocciola Pontifex. E i tifosi della Juve espongono allo stadio uno striscione che irride la tragedia di Superga. Timido distinguo di Andrea Agnelli che dice le tragedie non hanno fede. Certo che il signor Andrea Agnelli, magari l'ha detto, dovrebbe pronunciare semplicemente queste parole. I signori che hanno esposto quello striscione andrebbero presi a calci nel culo. E cancellati, ove riconosciuti, con tanto di telecamere, cancellati dagli stadi italiani. 800 24 00 24. Ingroia non ha ancora deciso cosa fare. A me dell'incertezza di Ingroia francamente non importa molto, però ogni volta è la stessa domanda: ma la politica non risponde sulla sua candidatura dal movimento degli arancioni di De Magistris. Detto di essere pronto per senso della responsabilità di dare il mio contributo, il che non significa che non sto dichiarando, che sto dichiarando di candidare. Lei non si candida perché non gliel'hanno chiesto o non glielo chiedono perché sanno che lei non si candida? Bella domanda, che rimarrà senza risposta. A Ingroia e deciditi su. Poi però dice Berlusconi ha creato ferite nel paese. Il ventennio berlusconiano ha inferto delle ferite molto profonde, creando una frattura quasi, ci metto un quasi, insanabile fra cittadini e istituzioni. Però abbiamo già sentito queste parole più volte, non solo da parte di Ingroia. Se è questa, oggi era in viaggio lui. Sì, se è questa la base per la candidatura, siamo al vecchio, eh. Poi dice anche che il movimento di De Magistris è quello di cui ha bisogno il paese, non mi sono mai tirato indietro, sarò con voi dal Guatemala o dall'Italia. La vostra iniziativa è un'iniziativa che condivido e che apprezzo, che io sarò con voi dal Guatemala o dall'Italia, questo si vedrà poi. Ma Ferrara su Casaleggio resta il top. Fatemi vedere Casaleggio in televisione, così Grillo crolla. Ferrara Casaleggio. Io non ho capito una cosa, ma Casaleggio voi l'avete visto? Perché il punto poi è questo, la fisionomica è importante. Sì, ma io l'ho visto. Se Aldo Cazzullo dice che bisogna rassicurare la gente, allora basta. Certo, se Mentano fa sempre vedere quello che nuota allo stretto di Messina o fa dei meravigliosi comizi d'attore comico, è finita, perché gli fai prendere il 30%. Sì, ma non è che, allora... Tu devi prendere Casaleggio tutte le sere. Tutte le sere al TG5, voglio Casaleggio. No, TG5, il TG6. Io sono sicuro che riuscirai a ottenere al TG5, Casaleggio. E ve lo auguro. No, ti prego, Casaleggio. Quello che ti voglio dire è... Come si distorce una frase, Renzi? Ma scusa, non ho capito, ma l'ha mandato a fare in culo a un certo punto? Boh, no. Quando gli ha detto TG5? Sì. E lui cosa gli ha detto, va a fare culo? Non mi sembra, comunque adesso risentiamo. Renzi risorsa nello squadrone, in realtà non voleva dire farà parte dello squadrone, però... Bersani. Renzi è stato un protagonista di questa bella avventura, no? Ci ha messo energia, ci ha messo freschezza. Una risorsa come siamo tutti in questo grande squadrone. La farsa del PDL, dove ancora non si è deciso nulla e c'è la processione del Santo di Arcore. Alfano, Berlusconi non mi ha manifestato la sua candidatura. Ma che vuol dire? Che significa? Berlusconi non mi ha manifestato la sua candidatura. Cioè, a me non mi ha detto che si vuole candidare, ma non gli ha detto nemmeno che vuole fare la forza politica. E non si capisce più nulla. La candidatura del presidente Berlusconi è una scelta che compete a lui e che oggi non mi ha manifestato formalmente, non mi ha manifestato, e se ci saranno delle decisioni in questo senso starà a lui comunicarle nei tempi e nei modi che lui riterrà. Ma il Crozza Silvio Style, fare una rubrica dal titolo Le dichiarazioni inutili. Il Crozza Silvio Style, sentiamo. Opla Silvio Style, Silvio Style, tutti lo sai, mi dico con forza vecchia roccia, che tipo di valori tu potresti stare dalla saccoccia, il solito tran tran di sesso, feste e poi la doccia, e anche il PD e lo scoccia. Lo sapete che pure Alfano e la Meloni vogliono far da sé, che vuole fare le primarie anche la Santa, che alle elezioni me che poco e ho capito che molto meglio esser me stesso senza voi, hey! Lo sai o no, hey! Sono stupo di un partito di avvoltoi, hey! Mi piace o no. Ma il caos è confermato, cari ascoltatori della Zanzara, da questa frasona di La Russa di stasera. Le primarie del PDL al momento sono convocate, ma Berlusconi sta riflettendo se confermare l'appuntamento. Se fossi un elettore, uno di quelli rimasti ancora al PDL, direi ma va. Ma infatti formalmente il povero Alfano lo ha ripetuto mentre andava in processione a Arcole, cioè a decidere sarà il consiglio di presidenza, formalmente. Ma sei diventato l'uomo delle cose formali, non ho capito. No, cioè di fronte a Crozza, di fronte a questa frase di La Russa, parli dell'ufficio di presidenza. Ma dico, sei matto. Silvano da Vicenza, 800240024. Silvano, non mi venire con la frase, con le parole sopra. Silvano da Vicenza. Buonasera. Dica. Io vi ringrazio per la bellissima trasmissione che voi conducete ogni sera. Va bene, vada. Allora, ho sentito questa sera di questo tentativo di creare un nuovo partito da parte del signor Baccini, mi pare, giusto? Ma non è un nuovo partito, è già una formazione politica che si chiama Cristiano Popolare del signor Baccini, sì, allora? Perché è già stato votato, cioè ha avuto già delle... lui è eletto, poi... Lui. E quindi voglio capire, i soldi dove li trova per poter portare le persone alla convention e per fare la convention? Ma saranno ancora i soldi del finanziamento pubblico che sono transitati dal PDL, eccetera, eccetera, e poi saranno finiti nei rivoli anche ai Cristiano Popolari, oppure saranno voti, soldi di qualcuno, non lo so, insomma sarà tutto, immagino regolare, normale, perché... No, è perché vorrei capire appunto se... Da dove vengono i soldi per questa organizzazione? Voglio per capire, portare gli anziani... È bravo. Cioè ognuno si inventa di creare un partito nuovo, sì. E può avere dei finanziamenti in qualsiasi modo, intendo dire. O solo perché appunto era nel PDL e quindi ha diritto a dei finanziamenti. Va bene, grazie. Alessandro da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Buonasera. Senta, io sono un elettore del centrodestra che è andato, sì, a votare per Renzi. Sì. E ieri mi è venuto un attacco di bile a vedere tutto il gruppo dirigente del PD gonfiarsi come dei palloni gonfiati a dire che c'era stato un grande spettacolo di democrazia. Però ha partecipato anche lei allo spettacolo di democrazia, scusi. Appunto. Sì, ma gli elettori come me hanno fatto di tutto per tenerli lontani dalle urne. Allora, se avessero voluto avere la vera democrazia, dicevano si va a votare, si porta il certificato elettorale, sì, e si vota. Quello anche secondo me, ma se lei perché da elettore di centrodestra convinto, immagino perché ce l'ha detto in maniera convinta, è andata a votare per la primaria del centro-sinistra. Sì, perché mi piaceva di più di degli altri candidati. Cioè, lei Bersani lo voterà? Alle politiche lo voterà Bersani? No, Bersani non lo voterò, ma le dirò che avrei votato per Renzi, perché a destra non c'è più nessuno. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. Just the same as he put you. I'm gonna go bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, sir, yes. I'm nature's mosquito. Fede, fede, fede, fede forever al processo Ruby, sentite. That's what even told me to do. And God loved me when he made me the same as he loves you, so I'm nature. Lei o l'onorevole Berlusconi, durante queste cene e dopo cena, siete stati toccati dalle ragazze nelle parti intime? Se uno mi indica precisamente che cosa si intende, cioè io... è molto specifica, più specifica di così. Ci passa un sì o un no? Va bene, no. I'm nature's mosquito. Una volta, quanto a trasgressione, una di queste ragazze ballando le è scivolato il reggiseno e la prima cosa che ha fatto il presidente o l'ex presidente è stato quello di indicare al cameriere di portare qualcosa per coprirla. Hai capito? Berlusconi pudico. La cosa più bella sono le domande di Chiedini. Le domande di Chiedini. A fede, testimone credo della difesa. Lei ha mai sentito disincanta? Lei ha mai visto? Senti fede al giornalista del Fatto. Sì, ma citando una sua intercettazione, non la offendo, anche perché. No, le mie intercettazioni non le puoi citare qui, non è un tribunale. Le intercettazioni, se non lo vogliono, le intercettatori. E ti prego, per cortesia, per rispetto che io. Anche e soprattutto se vuoi per il telegiornale, questa domanda non la fare. Difficile non rompermi le palle, se no altrimenti io il primo giornale che. Dovete a Padellaro di non romperle le palle, perché lei se no non si abbona più al Fatto Quotidiano. Io lo compro tutti i giorni. Tutte le mattine. Vabbè, ok. Tutte le mattine. I'm nature's mosquito. Elio da Milano, 800 24 00 24. Buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo solo chiedere e capire perché Toscani, che è un grande fotografo, grande artista, sì, anche piuttosto abile e furbo, perché è così, a questo punto è un periodo che è diventato una specie di tuttologo, per cui lo chiamate di qui, lo chiamate di là, sì, e chiedete pareri su mille cose, non ho capito bene le capacità, perché quando poi uno tira fuori la storia che la Santanchè vive in una casa di 900 metri quadri, calcolando che la Santanchè, a quanto mi risulta, non è inquisita per furti o per inadempienze fiscali, per cui se vive in una casa di 900 metri quadri sono cavoli suoi. Anch'io come lo penso così. Allora... No, mi scusi, come il buon Toscani vive in una villa in Toscana, fa il vino, fa tutte le sue cose. E perché... allora? Ai mezzi. No, voglio solo capire perché Toscani deve essere interpellato su 100.000 argomenti. Perché ci piace così. Ah, ecco, beh, basta, questo è un chiarimento, un po' come io potrei dire che non capisco come Parenzo continua a sfottere Sgarbi, che non ha neanche il 20% delle conoscenze culturali di Sgarbi. Sì, lei prima può dire magari, quello che vuole. No, certo, tutto fa quello che vuole, però visto che un giornalista, se magari prima si addottora o capisce bene quello che conosce Sgarbi, poi lo può sfottere, giusto? Bah. Comunque con simpatia, perché siete una bellissima persona. Grazie. Elio da Milano. Elio da Milano. Era lui, Davide da Brescia. Sì. Vada. Ciao. Vada, Davide. Sì. Sì, mi scusi, mi è entrato Bluetooth. No, io non ho capito che è successo. Anche se ho il 20% di conoscenze in meno di lui, però tra di noi ci si può anche sfottere senza problema. No, volevo parlare un attimo del caso Sallusti, volevo dire una cosa del caso Sallusti. Io volevo parlare della diffamazione mezzo stampa e volevo no dire, guardi, non mi interessa lei. Se lei vuole entrare nel merito della diffamazione mezzo stampa non mi interessa. No, io voglio entrare nel merito del fatto che voi giornalisti pensate sempre di sapere esattamente che cosa sia giusta come pena per la diffamazione mezzo stampa. Ma chi? Ma io non so nemmeno di che cosa sta parlando, cioè figuriamo se so cosa è giusto o cosa non è giusto, se la pena è adeguata o no, non lo so, non mi permetto di dire questa è la pena adeguata, so solo che il carcere secondo me va previsto in casi molto molto molto molto molto rari. Posso solo chiederle una cortesia? Sì, lei può se fare quello che vuole. Dicessi, sì. Se io adesso le dicessi non a mezzo stampa, ma se lei dicesse di me domani a mezzo stampa che io sono la peggior persona del mondo, un figlio di puttana, quello che vuole, io come cittadino semplice ho veramente poche armi per difendere. No, lei mi cita per diffamazione. Quando lei e Parenzo parlate del fatto di essere diffamati mezzo stampa, a voi non ve ne frega niente. niente. Perché se io domani mattina fossi anche un giornalista, dico Cruciani è una testa di cazzo, lei fa una trasmissione, fa una, sa, mi smentisce, è un gioco tra di voi. Ma in realtà capire esattamente qual è la pena appropriata. Io non ho capito, Davide, lei dove vuole arrivare? Me lo spiega un attimo. Deve arrivare al fatto che secondo me sia lei che Parenzo, quando dite che il carcere è troppo, avete un conflitto di interessi, è una parola trita e ritrita. No, può darsi che abbiamo un conflitto di interessi, ma io non dico che il carcere è troppo, io dico che il carcere, peraltro ho una posizione diversa da quella di Parenzo, io dico che il carcere può essere previsto in casi molto rari, ovviamente, perché si tratta pur sempre di un delitto, come dire, di opinione o comunque di qualcosa che riguarda, non è un omicidio, appunto, insomma, no, però siccome secondo me anche attraverso la penna si può ammazzare qualcuno, si può denigrare qualcuno e portarlo situazioni a soluzioni estreme o addirittura rovinargli la vita, la reputazione e la famiglia, io penso che in alcuni casi possa essere previsto, non è certamente la vicenda di Sallusti. A parte che se dovessi querelare tutti quelli che alla Zanzara negli ultimi 2 anni mi hanno dato della testa di cazzo, sarei diventato miliardario quanto Silvio Berlusconi praticamente, perché ogni giorno ne arriva un moccolo di qualcuno, per cui voglio dire, quindi, Davide, allora? È stato ricco. Come? Se uno mi avesse dato della... Dicevo che se a me uno mi avesse dato della testa di cazzo per radio o televisione, e sono Davide da Brescia, io non sarei mai diventato ricco. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Chi lo dice? Chi l'ha detto? Io non sono Parenzo. Ma che c'entra? Che c'entra? Faccia qualche domanda. Non ho la possibilità di replicare sui media. Non ho la possibilità di replicare sui media. Una volta che lei l'ha detto su di me, sono io che faccio il mio lavoro. Vada lei dai miei fornitori o clienti che mi conoscono a dire, beh sì, domani faranno la smentita. Tra di voi è un gioco diverso. Sì, può darsi che noi siamo più protetti, può darsi che le smentite non vengono messe in evidenza, quello sicuramente è vero, Davide, il cittadino è meno protetto, la persona diffamata che non è della categoria è sicuramente meno protetta, le smentite sono messe con minor rilevanza, ma non c'è dubbio. Davide, però abbandoniamo questo discorso, la ringrazio. Marco da Roma. Buonasera. Buonasera, dica. Io volevo dire che dopo aver visto i vari lusi, sì, i vari penati, sì, cosa c'entra adesso? Non lo capisco. Adesso ci arrivo, perché sì, alla fine ci arrivi. Vedi Ballarò, vedi che c'entra Ballarò, vedi Santoro, vedi tutte queste trasmissioni dove la gente avvelenata, vedi gli operai arrampicati sui tetti, vedi, sì, poi in piazza che staccano tutto. Io penso alle prossime elezioni, se Grillo, il popolo italiano non dà il grillo, almeno il 40% è un popolo di merda che bravo, deve, Marco. Deve andare a fanculo. Bravo Marco, lei è un popolo proprio di senza palle. Lei è un sincero democratico, una persona tollerante. Sì, ma io non so, non voglio essere democratico, voglio vedere questa gente, i vari lusi, i vari Batman, prelevati proprio dentro le case e messi nelle patrie galere per sempre. Bravo, eccolo. Marco, bravo. Lei è tipico elettore di Grillino, dunque, mi sembra. No? Sì, sono tipico elettore di Grillino, anzi, sono ex elettore di centro-sinistra, ex elettore di centro-destra, adesso sono schifato e spero che il popolo italiano dia il voto a Grillo. Il 40%, no, il voto, il 40% o il 50%. Perché lei i politici li vuole tutti al muro. I poli italiani sì. Quelli, italiani tutti al muro. Beh, d'altra parte Grillo ha detto che ci vuole, no, il processo, no, i tribunali speciali del popolo, giusto? Abbiamo visto, penso che non ci siano più attenuanti per questa classe dirigente. Ah, non c'è dubbio. Ieri piccoli piccolo, no, per portare il popolo italiano un popolo di merda. Di no? Merda, certo. E certo, gli elettori del centro-sinistra avevano una piccola possibilità di cambiare, come al solito l'hanno persa. Sì. Perché sono aggrappati, chissà che cosa, ieri vedevi questa gente in piazza festeggiare, ma che te festeggi? Ma che cosa ti festeggi? Ma che c'è da festeggiare? Ma se è vero tutto quello che si vede in televisione, gente arrampicata sui camini, gente legata nelle fabbriche, studenti che spaccano tutto in piazza, da festeggiare, che c'è da festeggiare? Io spero che Grillo prenda il 50%, ci faccia uscire da questa cazzo di Europa di merda, questa cazzo di Europa di merda, con quest'euro che ci ha distrutto, ha fatto guadagnare solo chi già era miliardario prima, sì. No, perché l'euro non è stato fatto per il ceto medio basso, è stato fatto per chi già aveva i miliardi. Poi? No? Questo è stato dimostrato di fatto. Poi niente, poi si torna a quello che era prima. Si torna a quello che era prima, si stava meglio quando si stava peggio, insomma. Beh, si riparte come ha fatto il Brasile, come ha fatto l'India, e come secondo me non fanno fare alla Grecia, perché sarebbe un precedente, perché se la Grecia esce, magari sta nella merda, dopo risorge, sarebbe la dimostrazione appurata che l'euro è il culo. Quindi la Grecia, che è tecnicamente fallita, la tengono dentro per la giacchetta, perché creerebbe il precedente. Capito, Parenzo? Grazie Marco. Fabio da Lodi. Fabio da Lodi, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo parlare anch'io di Grillo. Sì. Pur avendo Grillo degli aspetti seducenti, alla quale neanche io sono insensibile, c'è da dire che Grillo è un gran furbacchione. Adesso le spiego perché. Perché Grillo detiene il marchio del Movimento 5 Stelle, e questo senza avere nessun ruolo organico all'interno del movimento. Quindi lui in questo modo riesce a mantenere potere di veto su tutti i componenti del Movimento 5 Stelle, perché essendo lui dentro del una cosa nuova dice, una cosa nuova, però non tutti la tengono in considerazione. Veramente la tengono in considerazione tutti? Come, scusi? Veramente tutti la tengono in considerazione, tutti sanno chi comanda lì, tutti sanno chi ha la golden share là dentro. Secondo me non tutti lo sanno. Invece lo sa lei. Oggi, per carità. Poi io leggevo un'altra cosa stamattina, se non sbaglio, ho letto che Beppe Grillo indice le primarie del suo movimento, primarie alle quali partecipano, se ho ben capito, 1400 le parlamentarie candidati. Si chiamano. Comunque, io adesso vorrei sapere. Questa qua secondo me non è una democrazia, in realtà è una finta democrazia, è un'oligarchia. Adesso le spiego. E perché è un'oligarchia? No, non ci spieghi nulla, non c'è bisogno. Perché con 1400 candidati vorrei vedere chi è che sta a guardare candidato per candidato, e lui inoltre impedisce ai candidati di andare in televisione. Parenzo, ma l'hai tirato fuori tu questo stasera? Io ti assicuro, credo che purtroppo tutte le volanti, qui ci vuole un combinato disposto di volanti e di ambulanza. Insieme. Cioè, perché insieme non ce la fanno gli infermieri a portarlo via, poverino. No, non credo. Ti ho invitato un personaggio, caro Parenzo. Finalmente abbiamo il top. Finalmente Miguel Gotor, Miguel Gotor, che c'entra? Francesco Merlo. Il braccio destro di Bersani. No, che c'entra Francesco Merlo? No, Repubblica, editorialista. Angelo Panebianco. No, più in alto, più in alto. Ah, più in alto. Bravo, bravissimo. Giovanni Sartori, bravo. No. Guarda, ti assicuro che da questo momento in poi sentiremo 3-4 persone, perché purtroppo potevano per pochi minuti, però siamo veramente al top. Forse uno dei più grandi studiosi di sistemi elettorali, il professor Dalimonte? No, ma siamo al top della politica. Cioè, è stato presidente del Consiglio. È stato presidente del Consiglio. Beh, è stato presidente del Consiglio. Ti ho servito un assist. È stato presidente del Consiglio. Giuliano Amato. No, non è Giuliano Amato. No. Giulio Andreotti. Dopo. C'entra Andreotti. Presidente del Consiglio. Sì, d'accordo. Beh, più volte, naturalmente. Però non Giulio è lui. Berlusconi. No. Dai. Il grandissimo su. Romano Prodi. Buonasera, professore. Professore? Buonasera, professor Prodi. Buonasera a voi. Oh, finalmente. Che bello, finalmente. Lei è stato il più importante, sono emozionato perché il governo, lo dico sempre, uno dei governi migliori della storia repubblicana. Sì, ma finalmente siamo riusciti a recuperarlo, perché è sempre stato un po' con la zanzara, un po' restio, perché insomma Zanzara parti, Parenzo che fa le sue battute, eccetera. No, eccetera. Ha detto una volta al telefono a uno dei nostri... Le pizzicate. Ah, le pizzicate, professore, lei è restio. Sì. Beh, sì, lo capisco, naturalmente. Senta, ma adesso lei, come ci ha detto prima, quando ci siamo messi d'accordo per questa intervista, ci dovrebbe rivelare per chi ha votato a queste primarie, no? Parenzo, mi sembra questo è importante. Una cosa importantissima. Fino adesso lei è rimasto piuttosto riscaldato, anche se ha fatto capire negli ultimi giorni. Insomma, professore, lei, abbiamo visto tutti, ha votato al ballottaggio. Per chi ha votato, professore? Io ho votato, e non potevo far diversamente, ho votato per Bersani, che è stato mio ministro, è stata la figura che gli ho voluto un gran bene, ed è stata una grande festa, ci è piaciuta a tutti quanti, una grande festa per il ritorno di un grande Ulivo, mancavo solo io. Professore, sì, grande Ulivo, adesso non si sa bene se tornerà l'Ulivo o no. E però... alla fine, caro Cruciani, alla fine gira che ti rigira, le idee sono sempre quelle lì, la sinistra è sempre quella lì, alla fine sono sempre io e alla fine è sempre per sé. C'è sempre lei di mezzo. Senta, se posso fare una piccola piccola considerazione che ho fatto anche ieri a tutti i giornali. Sì, sì. Che ora bisogna cambiare la legge elettorale. Beh. Che funzionava tanto bene la stessa quando c'ero io, che ho governato per 2 anni, avendo quasi perso le elezioni. Sì. Ora questa stessa legge non va più bene e bisogna cambiarla. Bisogna cambiarla, beh, è una cosa che dicono tutti, certo, secondo lei bisogna cambiarla, vabbè. È la stessa di prima. La stessa di prima, su questo lei è stato eletto nel 2006, poi Berlusconi nel 2008, però adesso bisogna cambiare. Adesso non va più bene, non va più bene. Non va più bene. Di te, io ci sono più io. Ma io sono sempre disponibile. Ecco, appunto, ma lei che futuro politico prevede? Cioè, prevede un suo futuro politico? Cioè, per esempio, ma si guardi, parla... quando un grande uomo come me arriva a questa età, c'ha 2 grandi strade di fronte. O si leva dalle balle... oppure vuol fare il Presidente della Repubblica o qualche altra roba di questo genere. Ah, ci sono 2 cose. Io farei volentieri quell'altra che non è levarsi dalle barre. Beh, certo, è chiaro. Professore, grazie. Grazie a voi. Grazie. Soprattutto a lei, a quell'altro lì, non lo ringrazio nemmeno. Grazie. Giuseppe grazie. Dalla provincia di Chieti, buonasera. Con tutti gli elogi che gli ho fatto. Giuseppe, invece no. Non ho capito, ma che roba è? Ho detto che Antonio migliore... dalla provincia di Napoli. Ma guarda che veramente... Ma... Buonasera, dottor Cruciani, mi sente? Dica. Ma guarda che sto proprio un personaggio. Allora, niente, volevo dirle, io sono indignato per quelle informazioni fatte ieri sera da Giuliano Ferrara. Sì, che ha fatto Ferrara? Perché ha parlato, insomma, di Grillo, di... Aspetta, mi è partito l'antifurto, la macchina pensi che... Ma come l'antifurto, scusi? Allora, niente, stavo in macchina e partito l'antifurto. Niente, allora, Ferrara ha parlato male di Grillo, di Casaleggio, tirando pure la Topognana, insomma, roba da ombroso. Sì. Il che può essere poco piacevole, insomma, sicuramente poco piacevole. E vabbè, Giuliano Ferrara ha detto: se uno fa vedere sempre Casaleggio invece di Grillo, Grillo dimezzerebbe i suoi voti, prenderebbe meno voti. Qual è il problema? Ma la cosa grave è che ha parlato anche male di Roberto Saviano. Insomma. Vabbè, ha detto che Saviano è una bolla mediatica, ma non è la prima volta che parla male di Saviano. Beh, ma comunque non grave, è che non si possa parlare male di Saviano, non è che adesso c'è il sepolcro imbiancato. Bisognerebbe avere il coraggio di fare quello che ha fatto Saviano per parlarne male, insomma, è troppo facile stare là in poltrona. Poi voglio dire, insomma, si è parlato di onomastica, insomma, di ombroso, di viso, ma rassicurante, non mi sembra che Ferrara sia poi così rassicurante. Sì. E poi questa è la dimostrazione che tra i giornalisti, tra i politici, c'è una lobby che ha paura del nuovo, ha paura di chi non conosce il meccanismo, di chi non è dentro il meccanismo. Va bene, Antonio, grazie. Un attimo solo, Parenzo, perché c'è un altro personaggio che incombe. Qui ho altre sorprese riserve. No, perché adesso dopo Prodi dobbiamo sentire anche qualcosa sulle primarie del centrodestra, no? Perché qui non si sa bene che cosa succede. Ah, beh, certo. La persona migliore, lo sai qual è secondo te? Qual è? Il top sarebbe Berlusconi. No, vabbè, Berlusconi no. È una persona molto vicina a te, molto vicina a te. A me molto, come molto sì, vicina? Sì, a te molto vicina, ogni tanto lo punzecchi, ogni tanto lo rincorri. Fabrizio Cicchitto. E certo, il capogruppo alla Camera. No. Beh sì, buonasera Cicchitto. Sì, buonasera. Buonasera. Come buonasera sta? Solo a lei, perché quell'altro manco glielo dico buonasera, guarda. Ma come manco glielo dice? Scusi, perché non lo saluto? Ogni tanto scherzate insieme, su. Non sì, no, scherza lui, guardi, perché io non scherzo per niente quello là. Ah, è bene, ecco, è bene. Intanto quello lì, intanto quello lì, per cortesia, lo dice a qualcun altro, perché io faccio, capito? Vabbè. Sì, no, non volevo evitare degli insulti gratuiti, altrimenti se no poi finisco nella marea delle querele che lei sta preparando per farsi costruire una casa grande come quella a Sant'Anchè, guardi. Allora, Cicchitto, volevo sapere però da lei una cosa rapidamente, so che non ha molto tempo, ma queste famose primarie, adesso non ne possiamo più, si fanno o non si fanno? Cioè la data sembra confermata, però Berlusconi non si pronuncia, ci dica una parola definitiva, lei mi sembra uno di quelli insomma più favorevoli a... Io sono uno di quelli più favorevoli. A questo punto ci stanno 2 grandi strade. La prima è quella di farle, eccetera, e così via. La seconda è quella di non farle per niente. E a questo punto, se si sceglie la strada di farle, una data potrebbe essere quella che si è detto del 16 dicembre, oppure ci sarebbe un'altra ipotesi, che sarebbe anche quella del 25 e 26 dicembre, eppure l'abbiamo scartata, perché c'è quel tizio lì con la barba finta che si cala per il camino, che non mi piace per niente, intanto perché la gente gira con le barbe finte, caro Cruciani, lasci perdere, perché è bene diffidarne, e poi il secondo, si capace pure che si leva barba finta, viene fuori che c'è Parenzo, che anziché portare i doni se li frega pure. Vabbè, questo è uno scherzo. Comunque, queste primarie si fanno o non si fanno, Cicchi? Su. Guardi, a questo punto io direi non lo possiamo mettere, non ce lo possiamo mettere a decidere qui, però se chiama qualche ascoltatore e ci dà qualche data, posso dire che ci impegniamo a valutarla. Il suo giudizio quel giorno e la sua preferenza. Gambe sulle braccia. Hai capito? Tu puoi dire, caro Parenzo, vabbè, pensaci prima, no? Appunto. Pensaci prima, iscriviti prima, però. Ma per concludere la nostra carta. Siccome sì. Carlo Verdone ha ragione, ma non è che le valgono per qualcuno e non per qualcun altro. No, beh, certo. Sai che ho in linea adesso perché io voglio risolvere la questione delle primarie del PDL. Prima abbiamo sentito Cicchito. No, però, a Cicchito volevo dire che non c'è più, però magari ti ascolta. Cicchito sì. Uno tipo che ha scritto più libri di quasi non ne abbia letti. Gliel'avevo detto anche in faccia. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai? Guarda che è un uomo di grande cultura, Cicchito, che dici? Sicuramente ne sa più. Ne sa più di te, su questo non c'è dubbio. Però c'è un altro grande personaggio del PDL un po' emarginato adesso, che è molto vicino a Berlusconi, molto dubbioso sulle primarie, molto dubbioso anche sul PDL, vuole uscire, insomma dice che ormai è un'esperienza finita, in mano agli ex AN. Sandro Bondi, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, senta, onorevole Bondi. Una voce così sottotono. Vabbè, una voce così, che devi fare? Ognuno ha la sua voce, scusa. Posso fare una precisazione al signor Parenzo? Sì. Volevo dire che Fabrizio Cicchito ha, come noto, un cleptomane di libri. Sì. Ha letto molti più libri di quanti il dottor Parenzo non riesca neanche a immaginare in tutta la sua vita. Glielo dica. Il dottor Parenzo, con i libri ci mette apposta i tavolini dietro casa, dovrebbe pensare due volte prima di parlare così di una persona colta come l'onorevole Cicchito. Certo. Ma perché? Perché è giusto, ma tu hai dato dell'ignorante a Cicchito, che è uno che comunque i libri li legge. Scusi, onorevole Bondi, ma mi dica, queste primarie ormai sono una farsa, cioè non sarebbe il caso di cassarle definitivamente? Guardi, qui c'è una questione di fondo, cioè. E qual è? Scegliere il capo, il dottor Berlusconi, sì. Ovviamente non ha senso avere le primarie, e quindi, che è quello che io auspico, un grande ritorno. Sì. Di Silvio Berlusconi nella scena, sì. Finalmente una grande operazione verità, sì. Di fronte a questi signori che hanno prima pompato e poi, sì. Raffreddato lo spread e hanno fatto vedere che Mario Monti poteva essere la soluzione e la panacea a tutti i problemi, e questo non è vero, lo capisce perfino una persona così semplice, diciamo, sì. Come il dottor Parenzo, lo capirebbe anche lui, lo capirebbe. Ma come? Scusi, un'ultima cosa, se lei fosse così gentile, sì. Dottor Cruciani, sì. A spiegare al dottor Parenzo queste cose così semplici, elementari, che anche un cretino capirebbe, si farebbe un giornalismo più di qualità. Non c'è dubbio. Ma adesso Bondi mi insegna come fare il giornalista. Non dico, un'ultima cosa, ma rinasce Forza Italia oppure la si può chiamare in un altro modo? Forza Italiani? Lei, insomma, che nome preferisce, onorevole Bondi? Forza Italia, caro dottor Cruciani. Forza Italia? Senza manco perché due. Continuato sempre il suo progetto, è sempre stata incarnata al nostro presidente Berlusconi. E chi crede che Forza Italia sia morta? È qualcuno che ha pensato delle cose sbagliate, ha pensato. Vabbè, svegliamo tutto, va Parenzo, svegliamo tutto, perché vabbè, dietro queste voci, perfette, cioè, devo dire. Beh, alcune sì, altre meno, ma è normale che sia così. Dietro la voce di Prodi, dietro la voce di Cicchito, dietro la voce di Bondi, dietro tante altre voci si nasconde un deputato della Repubblica, Simone Baldelli, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Simone, ciao. Come stai? Ciao, come stai? Benissimo. Allora, Simone Baldelli, il vice di Cicchito in realtà. Qui tu hai, Parenzo, il vice di Cicchito finalmente da stritolare, un'altra volta, già un anno fa, più di un anno fa è venuto. Il vice del tuo amico Cicchito. Beh, per la gioia di Parenzo, sì. Beh, per la gioia di Parenzo. Simone Baldelli, insomma, ognuno è vice di qualcuno. Parenzo è vice di Cruciani, è vice di Cicchito. Ognuno ha il suo Cicchito, diciamo. Esatto, io sono il Cicchito. Io sono il Cicchito di Parenzo, insomma. esatto. E guarda che forse lo tratto peggio io di come Cicchito tratti te, È probabile che sia così. Sì, questo è certo. Anzi, se vuoi far cambio, ogni tanto io vengo lì alla Zanzara e mandiamo Parenzo da Cicchitto. Ma scusa, secondo me campa poco, ecco. Baldelli, la frase chiave di Cicchito ogni volta che sono riuscito non a intervistarlo ma a inseguirlo è, per me lo devi ripetere con la tua voce, sei un criminale cretino, un cretino criminale. Com'è che fa, Simone? Sì, tu sei un cretino e un criminale, guarda. Dice sempre così, sì. Cos'è che ti disse su Saviano? Cosa ti disse su Saviano? Fu eccezionale, su Saviano. Saviano sarà un mito per gentaccia come voi. No, per gente come voi, perché tu gli hai fatto la domanda, ma Saviano com'era la domanda tua ridicola come al solito, com'era? No, l'ho fatto per provocarlo come al solito, dove, insomma, Saviano è un grande simbolo della lotta alla mafia. E lui? Il vostro simbolo, di gente come voi. Va bene, Simone Baldelli, avete capito che ha già pronta una nuova occupazione per il marzo 2013, perché oltre alle imitazioni è anche uno che dipinge. Ma è vero che dipingi sulle serrande? No, io ho fatto un libro fotografico di serrande dipinte, che è un trend di... Ma perché non cominci a dipingere pure sulle serrande? Di arte urbana. Io dipingo, ma dipingo su plexiglass. Mentre sulle serrande è stata fatta una mostra, ho fatto una mostra di recente e una pubblicazione di un libro che si chiama 100 serrande, che è una raccolta fotografica, e c'è anche un sito che si chiama 100serrande.it che raccoglie le serrande più belle dipinte a Roma e in giro per l'Italia. Ma che altro sai fare oltre a imitare, a fare... Non lo so, abbiamo diverse attività, insomma. Fotografia. Abbiamo anche scritto un libro ultimamente, se ne vogliamo parlare. Certo, un libro sulla tua esperienza in Parlamento, Viva Montecitorio, Guida pratica e misteri dell'aula della Camera, Rubettino. Tra l'altro, l'introduzione di Fabrizio Cicchitto, e Fabrizio Cicchitto dice quali sono state, non so se in tono, come dire, serio oppure per scherzo, quali sono state le reazioni dei tuoi imitatori, perché tu sei collega parlamentare di Bondi, di Tremonti, di Cicchitto stesso, ovvio. Cicchitto, vabbè, non se l'è presa naturalmente per queste imitazioni. Tremonti? Tremonti ha avuto una reazione un po' più fredda, come tipico del carattere di Tremonti, insomma. Ma è vera la cosa che... No, ma quello è uno scherzo di Cicchitto, non è che ha messo sotto indagine fiscale la tua famiglia, no? Chiaramente no, chiaramente è uno scherzo. Però insomma Tremonti, quando ha visto nel filmato, perché il filmato, che non è noto, è un'intervista tripla, tipo sulla fattispecie delle Iene, dove io ero truccato, le ho fatte in tre serate del dicembre del 2009, nelle more delle votazioni durante la finanziaria, ma truccato da truccatori professionisti... Truccato da Cicchitto, Bondi e Tremonti, rispondevo a delle domande fatte dalla voce fuori campo, che ero sempre io. Scusi, un attimo solo, Tremonti, lei chi appoggia in Lombardia? Me lo dica chiaramente. Vai. Guardi, vediamo, il miglior candidato sarei io, ovviamente, però se non mi candido io rifletterò su chi altro votare, cioè, certamente non con lo stesso entusiasmo. Però Maroni, mi sembra, no? Ormai lei ha deciso di appoggiare Maroni in Lombardia. Mi pare, io mi sono già fatto due Maroni in questi ultimi anni, vediamo se è il caso di continuare. E Simone Baldelli invece è del partito pro Berlusconi o del partito pro Alfano? Adesso non fare diplomatico, Simone, su. Io sono, figlio di Forza Italia. E dunque, se Berlusconi fa capo di Forza Italia, dei giovani di Forza Italia, sono nel PDL e credo che bisogna trovare una soluzione per uscire tutti insieme. Per non stare alla rincorsa di questi signori. Io ho visto le primarie di ieri e Bersani festeggiava come se avesse vinto le elezioni. In realtà ha vinto le primarie, tra l'altro. Però scusa, se Berlusconi gli fa Forza Italia. Una parola con voi che siete un programma giornalistico serio. Basta con questa presa in giro di Vendola che fa discorsi complicati e lo pigliano in giro per tutte queste. Se poi avete sentito l'audio messaggio di Vendola dopo le primarie? Che ha detto? Il sinallagma strategico che si sussume dalla celebrazione della seconda sessione delle primarie suggerisce oggi a Bersani, protagonista di uno schiacciante successo, di seguire il sentiero assai scosceso della sintesi a sinistra tra sostenibilità sostanziale, sussulto del sud senza sussidi e speranza in difesa del sistema paese. Io la combatto da ore. Beh, era sempre Baldelli che ha un futuro assicurato, Parenzo. Qui se la candidatura non scatta, anche se lui di legislatura ne ha fatte due, 2006 e 2008, siamo a 7 anni. Quanto vitalizio prenderai? Lo sai già? Io intanto tengo il telefono con una mano sola. In che senso? E nell'altra ovviamente ho il libro che vi consiglio, 10 euro, Rubettino. Ma il libro lo diciamo? Per conoscere, ma lo diciamo noi, come il libro, funziona, non ti preoccupare. La Camera davvero. Ma tanto lo diciamo il libro, non ti preoccupare. Ma parliamone anche. anche. Viva Montecitorio, vabbè, ma tu là racconti un sacco di cose, ma perché dobbiamo lasciare, come dire, dobbiamo togliere il gusto? Facciamo il gusto, ma sì, ma sì, è giusto, dai. È giusto, è giusto. Hai scritto pure un libro, hai, fai foto, fai le imitazioni, sicuramente sai stare sulla scena, ma che diavolo ci stai a fare la camera? Questo è il punto. Infatti me l'ha detto nel libro, me l'ha detto pure che Cozzalone, stai sprecato per stare là dentro, mi ha detto. Capito, Parenzo, che vuoi sapere, vale? No, voglio capire, dall'ottimo Baldelli, tra un'imitazione e l'altra, tu hai già provato a chiedere. Sì, ma io voglio capire, se Berlusconi, se Berlusconi fa Forza Italia, lui che è stato capo dei giovani di Forza Italia, te lo ricordi? Innanzitutto, l'inno di Forza Italia, te lo ricordi tu che sei stato capo dei giovani? Beh sì, noi tra l'altro c'avevamo anche il nostro che era Azzurra e Libertà, quello dei quale ti piace di più, Italia. Azzurra e Libertà oppure Forza Italia? Beh, io amavo più il primo, e Forza Italia, Forza per Italia. Essere liberi. E vai, vai, vai, vai, partiamo, dai, adesso me lo devi cantare, però, adesso me lo devi cantare, adesso me lo devi cantare. Forza Italia, per essere liberi, dai Forza Italia, che siamo tantissimi. E abbiamo tutti un fuoco dentro al cuore, un cuore grande che, sincero e libero, batte forte per te. Però lo sai che è l'unico che lo sa, Parenzo, tutti quanti dicono di saperlo. No, che strofa. Come quello della nazione, l'inno di Forza Italia lo sanno. E poi qual è l'altra strofa? Non la sai l'altra? Manca l'ultima. Sì, sì, beh, no, è questa. Forza, è l'unica, alziamoci. È questa? No, no, ce ne saranno forza, altre di strofe. Vabbè, no, questo è il ritornello. Sì, e forza, poi? Alziamoci, il futuro è aperto, oh. Entriamoci, oh. E le mie mani, vai, unite alle tue. Benissimo. Energie. E vabbè, poi è lunga, mica. Vai, vai, vai, io voglio sapere tutta. Per sentirci più grandi, grandi, forza Italia mia, che siamo in tanti a crederci nella tua storia. E poi continua, dai, vai. Beh, ma è spettacolare, oh, perché ti ha... notte, se no. No, perché io c'ho niente da fare al momento, no, però... di voi. Beh, adesso non c'è niente da fare, non lo devi dire, perché è meglio, no, insomma, già organizzato per fare il collegamento. No, d'accordo. Però scusa, io a questo punto dove eri arrivato? Non stai guardando su internet, la sai davvero a memoria? Tu stavo. No, la so a memoria, sì. Ma insomma, Lo so, sai, ma un sacco di gente dice. Ho fatto il capo dei giovani Forza Italia per più di 6 anni. Simone, c'è un sacco di gente che dice, beh sì, voglio Forza Italia, ma non sapeva manco l'inno, tu sai tutto, pure l'inno. Ho capito, ma magari non era di Forza Italia, voglio dire. Vabbè, ho capito, ma poi come prosegue? Chiusura, come chiude? Nella tua storia, un'altra storia c'è, la scriveremo noi con te. Forza Italia per essere liberi, Forza Italia, poi? Che siamo tantissimi, abbiamo tutti un fuoco dentro il cuore, un cuore. No, ma vai, però cantala, non è che abbiamo così. Vabbè, ho capito, buonanotte. E allora? Questa è la canzone. E poi Azzurra Libertà, invece? Azzurra Libertà era l'inno dei giovani. Nasce come inno dei giovani di Forza Italia. E com'era anche questo? Io ti voglio nostalgico. Se Silvio rifà se Silvio rifà Forza Italia, ci vai o no? Ma vediamo. Ma come vediamo, su, ti dividi da Cicchito? Vediamo. Questa era la vera notizia, succede. Baldelli si divide da Cicchito, sarebbe una grande notizia. Potresti dividerti da Cicchito, che ne sai? Potresti dividere o è impossibile? Mi pare difficile, ma tutto è possibile nella vita. Ah, tutto è possibile nella vita, anche che tu ti separi da Cicchito. Beh, oddio, è possibile anche che tu ti dividi da Parenzo, per dire. Ma è possibile che facciamo questo scambio di postazioni. Va bene, grazie Simone. Non vuoi dire nulla su Forza Italia, non vuoi dire niente su Berlusconi, è giusto che rifà Forza Italia? O Forza Italia? Andiamo avanti così come siamo, uniti. Ma vabbè, ma quello ormai lo sai. Di evitare pasticci. Ciao, a presto. Ciao, Simone Baldelli, sera, Simone Baldelli è talmente simpatico, voglio di nuovo dire il suo libro, il nome del suo libro, il titolo. Guida pratica ai misteri dell'aula della Camera. Viva Montecitorio, il più grande imitatore della storia del Parlamento italiano, si è cimentato nel raccontare i lavori della Camera per Rubettino. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Email mandata da Carlo De Benedetti, dal perfido De Benedetti, a Matteo Renzi. Renzi, avendolo dichiarato pubblicamente, lei sa che ho votato convintamente Bersani, ma le riconosco lealmente il merito di avere, con questa sua candidatura, aperto in modo importante, con queste primarie, la stagione delle primarie vere. E troppe volte primarie, ripetuto, eh? Comunque, di aver fatto un ottimo lavoro a favore del futuro successo elettorale del PD. Non mancherò di farlo notare. Ma chi? Non si è capito questo, non mancherò di farlo notare. Cordiali saluti, cordiali saluti, CDB. Carlo De Benedetti, il quale aveva detto che peste corna di Bersani e di Renzi, diciamo la verità. Però gli ha mandato una mail. Ha paragonato a Berlusconi e Scalfari. L'eleganza, però, l'ingegnere delle immagini. Anche Scalfari non c'era andato leggero, Craxi, eccetera, eccetera. E invece manda una mail. No, ma io le immagino del suo ufficio, l'ingegnere De Benedetti, quando detta la mail alla segretaria. No, magari l'ha scritta lui, perché per forza. No, no, no, cara. Ma va. Ludovica? Sua Ludovica la segretaria. Ma no, ma scusa, ma non può averla. La parola ogni 12 minuti. No, no, no, l'ha scritta lui di suo pugno, dai, su. È grandissimo l'ingegnere De Benedetti, numero uno. Renzi, avendolo dichiarato pubblicamente, lei sa che ho votato convintamente Bersani. Beh, hai detto anche qualche parolina piuttosto pesante sullo stesso Renzi, eh? Ma le riconosco lealmente il merito di avere con questa sua candidatura aperto in modo importante con queste primarie la stagione delle primarie vere e di aver fatto un ottimo lavoro a favore del futuro successo elettorale del PD. Non mancherò di far notare, questa non si capisce, non mancherò di far notare a chi? Forse ad Ezio Mauro. Eh? Forse ad Ezio Mauro alla direzione di Repubblica. Ma è in ritardo ormai, è chiuso, tutto finito, cosa gli fa notare? Non mancherò, beh, che ne sai? Non mancherò di farlo notare. Ma a chi? Cordiali saluti, CDB. Spettacolo. Domenico da Cosenza. Buonasera dottor Cugione, buonasera dottor Parenzo. Io lo volevo dire, ma si rende conto che è una persona molto fortunata, sì? Chi? Perché il buon Michele Nero Giovannini le battute se le sarebbe voluto inventare, invece voi le trovate, dei politici le trovate molto spesso e molto belle. Poi volevo intervenire su quello che ha detto quello del suo ascoltatore della Roma, non mi sembra il modo opportuno di fare politica mettendo la gogna oppure proponendo di far arrestare i politici italiani, se secondo me le tue opinioni vanno argomentate. E allora Domenico la sento poco, allora che dice? Non ho capito. Sto dicendo che quello vostro ascoltatore di Roma prima, no? Sì. Che magari accusava tutti i politici che dovevano essere arrestati, messi sì, alla sì. gogna. Secondo me non è il modo giusto di fare politica. Mm. Al di là se il voto per Grillo può essere un voto di protesta, però comunque lo scelgo io nelle argomentazioni, tipo Renzi ha fatto la sua battaglia, l'ha persa, ha messo sì. la sconfitta. E tra l'altro secondo me adesso, grazie Domenico, dovrebbe continuare questa battaglia. Io l'ho detto anche più volte. Non è sbagliato fare, non dico una corrente, ma battersi all'interno del partito per le proprie idee. Magari può rimanere a fare il sindaco di Firenze, però bisogna che si batta all'interno del Partito Democratico perché questa grande esperienza delle primarie sopravviva con tutti i suoi uomini, eccetera, eccetera, portare i suoi uomini in Parlamento, portare delle persone in Parlamento, perché rappresentanti di una di un modo di concepire la società, non è sbagliato. La parola corrente non è necessariamente negativa, diventa negativa quando le correnti sono semplicemente delle posizioni di potere, degli arroccamenti di potere, eccetera, eccetera, una spartizione di posti, eccetera. Va bene, andiamo a sentire Francesca da Varese, poi c'è un ospite, Parenzo, un ospite particolare. Francesca da Varese. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Parlare anch'io delle primarie, sia quelle appena terminate che quelle delle... E allora? E niente, per dire che appunto come il tormentone della scorsa settimana di Sposetti, che la vittoria di Renzi sarebbe stata una cosa fuori dal mondo, cioè come un uomo che partorisce, che lei ci ha propinato in tutti i modi, che era anche abbastanza divertente, poi alla fine si è rivelato una giustissima previsione, punto. Questo per quanto riguarda le primarie del centro-sinistra, io ho votato Bersani convintamente. Poi, anche se al primo turno avevo votato la Puppato, tra l'altro. Poi, per quanto riguarda quelle di destra, io dico che il personaggio come Crosetto, che tra l'altro è simpaticissimo, e quando lei prima ha parlato dei lasciare montati i gazebi, le sedie, sì. perché Berlusconi non mette i soldi, è proprio un tweet di Crosetto che è stato letto sì. in onda l'altra sera, Vero. Che ha fatto morire dal ridere, perché è proprio un personaggio simpaticissimo. Bene, grazie, grazie Francesca, grazie. Zanza, zanza, zanza. Beh, sai che c'è una persona, David, che ha letto nel futuro di Bersani. Ah, oh, finalmente. C'è qualcuno che ci dirà se Bersani diventerà Presidente del Consiglio, se Bersani vincitore delle primarie. Che ha letto nel futuro in che senso? Beh, ha letto, insomma, è un sensitivo, dunque probabilmente avrà letto la mano, immagino, no? Ah, benissimo, molto bene. Ci dirà tutto, anche della vita privata privata di Bersani. Cioè abbiamo detto prima del signor sensitivo che presenterai tra poco, perché per me il sensitivo ce n'è uno solo. E chi è? Quello bene. Chi è? Se hai invitato qualcun altro, no. Io riconosco tanto una persona come sensitivo, il resto non mi interessa. Cioè chi? Scusa. Ma non abbiamo detto abbastanza su questa roba di Scaiola? Sì, ma abbiamo detto su Scaiola. Non abbiamo detto abbastanza. Cioè le minacce di Scaiola ai suoi ex, diciamo, che li ha fatti spiare, ai suoi ex uomini, che si sente abbandonati. Cioè, io ho lavorato ero ai servizi. So tutto di voi, sì. So tutto di voi. Dunque non vi, non vi tutto inosservato. Non vi permettete. No, che inosservato. Ma non si incazza nessuno. Chiamateci voi coordinatori. Telefonateci, amici della Liguria, spiati dal signor Scaiola a vostra insaputa. Chiamateci immediatamente, subito. Il sensitivo, beh, caro Parenzo, chi riconosci tu come sensitivo? No, soltanto una persona, inizia con la S. Beh, lui, mi sa che è lui, sì, mi sa che è lui. Allora, il mitico Solange, buonasera. Ciao, buonasera, sono felicissimo. Grazie di avermi invitato. Come stai? Beh, come stai, caro? Benissimo, grazie. Bene, bene, bene. Io sento sempre la vostra radio, ma non è una sviolinatura, è perché è una radio intelligente, cioè fate, sì, delle cose veramente molto, molto, molto carine e vere. Ti stai riferendo a noi, naturalmente, no? Sì, è certo. Livornese di nascita. Anche perché queste zanzare pungono e stranamente lasciano un segno positivo. Meno male, meno male. Livornese di nascita, scoperto da Maurizio Costanzo tanti, esatto, anni fa, eccetera. Però insomma, no, caro, no, Solange, no, no, dimmi, no, non proprio da Costanzo, da Jerry Scotti un po' di anni fa, quando feci Buona Domenica, e poi subito Costanzo. Benissimo. Però vabbè, tutti e due. Precisiamo che è meglio, sennò la gente poi si arrabbia. Scusami un attimo, Solange, però tu hai già letto, hai votato per Renzi, mi sembra di capire, no? No, no, no, no, no, non è per vero. Per nessuno? Dunque, no. Allora, io sono andato da Bersani, dal dottor Bersani, dal signor, sì, Bersani, da questo personaggio meraviglioso. Ma quando sei andato? Mi sono avvicinato così perché mi faceva piacere leggergli la mano. Lui è stato, sì, molto carino. Ma quando è successo? Scusa. È successo venerdì, questo venerdì. Cioè tu venerdì hai letto la mano a Bersani? Esatto. Una cosa pazzesca. Allora, dimmi un po', ti sei avvicinato dove? Dunque, ero a Livorno e sembrava quasi impossibile perché c'era un sacco di guardie del corpo. Lui mi ha sorriso, sì, io mi sono detto, posso leggergli la mano? E lui mi ha detto, sì, mi fa piacere. E io l'ho fatto. Quanto sei stato lì a leggergli la mano? Beh, un bel po'. Un bel po'. Almeno 10 minuti, e la cosa che mi ha fatto molto piacere è che ho trovato lui una persona molto vera, devo dire la verità, sì, e una persona anche molto... Molto? Aspetta, che sento poco, scusami Solange. Ho detto, lui è stato molto, molto anche non farsela leggere la mano, no? Sì, poteva non farsela leggere, certo, invece se l'è fatta. Pronto? Leggere. E vabbè, Solange, il sensitivo è caduto. Maria da Roma, buonasera. Ma non ho capito questa cosa qui, incredibile. Eh sì, ha letto, cioè, la mano a Bersani. Per 10 minuti è stato con Solange a farsi leggere la mano. A 2 giorni dal voto del ballottaggio si è fatto leggere la mano da Solange. Ma queste sono le bombe della zanzara. Ma che bombe, Maria, queste da Roma. Bombe, Maria nucleari. Maria, eccola. Vada. Pronto? Vada. Eccomi, eccomi. Allora? Allora. Bada, Maria, scusi, se non parla. Io sono una... Vabbè, lei ha la radio alta, Luca da Parma, la casso subito, Luca da Parma. Pronto? Bada. Come mai lei tratta così con sufficienza il giudice Ingroia? Ma io non tratto affatto con sufficienza, però... No, lei lo tratta con sufficienza. Ma questo perché... lo dice lei, scusi. No, sì, no, ho sentito prima, Ingroia decide, non decide... Non è la sufficienza, è la realtà. Ogni volta che glielo chiedono dice, non lo so, forse, come, perché... Lei cosa pensa di Ingroia? Mi lo dica... Che sarebbe sbagliato se scendesse in politica. E per quale motivo? Perché secondo me sarebbe sbagliato. Ma mi dica il motivo. Perché? Sarebbe sbagliato perché già perché? Sbaglia a fare considerazioni sul sistema politico da magistrato. Ma in Italia fare considerazioni politiche il Gabibbo, Cruciani. Appunto, il Gabibbo. Il Gabibbo ha detto bene, meglio il Gabibbo, meglio il Gabibbo. Ma io sto dicendo, non può parlare un Gabibbo, magistrato, non è più magistrato. Il Gabibbo per fortuna non può decidere di me o di lei, ha capito? Ma non neanche Ingroia, no? Beh, come no? Ha qualche potere in più del Gabibbo, insomma. Non è più magistrato. Sì, ma non è vero che non è più magistrato. Non è più magistrato. Sì, ma al di là di questo, ma lo faceva anche prima. Un attimo solo, Luca da Parma. Un attimo, abbiamo ripreso Solange. Solange, ma dove sei? Io avevo la linea pienissima, a parte vivo in piena campagna. Però ora mi senti? Sì, sì, ti sento. Senti? Allora, per 10 minuti hai fermato Bersani venerdì. Cosa hai letto, allora, in questa mano di Bersani? Sulla mano di Bersani ho letto una cosa molto importante. che ci sarà al terzo mese dell'anno nuovo del 2013 una donna del suo partito, del suo regno, io uso un termine spicciolo e gratuito perché non me ne intendo molto di politica, io vado a sensazioni, è una donna importante, lo tradirà, però non chiedetemi chi è perché non è carino dirlo. Cioè, scusa, nei primi tre mesi dell'anno una donna importante lo tradirà, che vuol dire? Vuol dire che succederanno un po' di pastrocchi e ci saranno veramente dei grossissimi litigi all'interno di questo entourage, quindi sarà una cosa non piacevolissima. Comunque volevo dire che lui è nato lo stesso giorno di Berlusconi. Ma questo si sa, Solaccio, non è che c'è bisogno del sensitivo però. No, vabbè, però questa è una piccola noticina che volevo mettere. Ma questo è notorio. Allora. Che fai, come il mago Telma, fai? No, assolutamente no, anche perché io non prendo soldi. E no, perché cose... poi no, ho detto mago Telma, per carità, adesso arriveranno gli strali di Otelma. No, no, scusami, no, divino. Scusami. Ascolta. Divino, scusami, divino. Comunque, la linea della vita del nostro grande Bersani è lunghissima. Ha il Monte di Venere molto spesso, quindi è una persona molto caparbia. Se si mette in testa una cosa la vuole raggiungere, e sappiate che lui riuscirà a cambiare veramente l'Italia. E Renzi, che stimo anche perché è una bravissima persona, toscano come me, gli darà una mano perché si uniranno. Non è vero che lui continuerà a fare ci sarà il ticket, ci sarà il ticket. Ma io sento che ci sarà, cioè l'Italia cambierà molto, molto, molto in meglio, nel senso che ci sarà grande positività. A Solange, io in questa mano di Bersani, hai letto che diventerà presidente del Consiglio? Sì. E dirò di più, ci saranno tante cose straordinarie che lui cambierà, perché lui vivrà di onestà, vi accorgerete di come cambieranno le cose. Questa non è una previsione, questa è una sorta di parenzo, è una sorta di così di elegia, di No, io ascolta, io ho guardato bene le sue linee, un buon 10 minuti, e poi adora l'osso buco. Adora l'osso buco, anche questo non è che c'è bisogno di guardare la mano però. Ma è carina come cosa, me l'ha detto, io lo dico, no? Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara alle 20:34 prosegue, vive Lotta insieme a voi, Michele da Milano. Intanto saluto Solange, grazie di averci raccontato la mano di Bersani. Una cosa l'ultimissima, dimmi. Finalmente una persona sana, saggia, umana e vera, che crede ancora in quest'Italia, in una bandiera che torni a splendere come prima. Grazie. Vabbè Solange, ma che è sta cosa? Hai fatto ma una sorta ma che è la mano questa qua? Non è che queste cose qui le hai lette sulla mano, questa è una sorta di, hai sventolato la bandiera di Bersani. Mi ascolti, caro, cioè, le hai viste queste cose qui, le hai viste sulla mano di Bersani? Sulla mano, queste cose qui le ho sentite, perché il sensitivo significa sensazione, ecco. Non si vende niente, uno più uno può fare due come 11. Hai sentito queste cose di Bersani? Ho avuto queste sensazioni, e succederà, perché veramente è una persona che cambierà veramente in meglio, molto in meglio l'Italia. Grazie, arriva la Zanzara. Ciao Solange. Grazie Solange. A una festa del PD e tutti urlavano giù, bravo Bersani. Renato da Napoli, buonasera. Posato una festa del PDL, Bersani avrebbe risultato, quindi sicuro. Senta, io le volevo solamente rappresentare il sottoscritto. No, anzi, c'era Luca da Parma prima, scusi Renato, c'era Luca che doveva concludere. Luca. Com'è? Luca? Sì, ci sono. Allora. Pronto? Sì, concludiamo. Concludiamo, è in groia, la sufficienza che lei, con quale lei tratta in groia, è insopportabile, per un semplice motivo, che un uomo di specchiata moralità. Ma nessuno ha detto il contrario, mica ho detto con delinquente. Integrità, il senso dello Stato, non è più magistrato. Non è vero? Non è più magistrato. Non è vero, è un'aspettativa. Allora, e poi comunque non è vero, un incarico gli è stato assegnato in Guatemala come magistrato. Ma anche fuori se della magistratura. Se Borsellino e Falcone si fossero espressi sulla politica, si sono espressi sulla politica. E ma io non ho detto nulla, io ho detto, io criticavo in maniera molto soft. Peraltro questa continua incertezza di ingroia sulla candidatura, non lo so. Ma l'incertezza, lui risponde a delle domande che gli vengono fatte dai giornali. Va bene, secondo lei invece è tutto chiaro? No, non è chiaro. Ah, ecco, meno male. No, non c'è nulla di chiaro. Semplicemente vorrei... Cioè, De Magistris dice che forse lo vorrebbe come leader di questo movimento. Lui dice, non lo so, forse non è il momento, vedremo, eccetera. Una domanda brevissima. Sì, mi dica. Cosa pensa lei di Ingroia al di là di questa questione della politica? Cosa pensa? Ma sarebbe troppo lungo, cosa penso di Ingroia? La domanda generica è, cosa penso di Ingroia? Riguardo a che cosa? Su questa cosa della politica... Riguardo alla politica della procura di Palermo, lei cosa pensa? Ma vogliamo passare tutta la notte? Luca, non possiamo passare tutta la notte, no. E allora no, ma è troppo lungo sarebbe come magistrato nel discorso, come in questa vicenda della politica, secondo me è un po', come dire, un po' troppo leggero, ecco, per essere un magistrato dovrebbe dire io non farò mai politica, non mi candiderò mai, oppure sì, ho intenzione di candidarmi prossimamente alle politiche, dunque lascio la magistratura. Invece è ancora tutto nel limbo e questo non va bene, secondo me. Ma Parenzo, vogliamo concludere in bellezza questa sera, col professor Antonio Zichichi. Buonasera. Oh, buonasera. Professore, come grande sta? Grande assessore. Bene, come sta lei? Non c'è male, neo assessore ai beni culturali della Regione Sicilia. Ma le piace la parola assessore? Oppure... No. Non le piace, come battiato, però, non le piace. Le parole non significano nulla, bisogna vedere quello che si fa. Però non le piace la parola assessore. Ma insomma... Non... Insomma, così, come battiato, non le piace. Com'è che sei stati... Chi è che ha detto battiato siete assessori creativi? Sì, giusto. Giusto, Ci sono cosa due modi per... Come, scusi? Ci sono due modi sì. per essere responsabili di qualcosa. Uno è quello di scaldare le poltrone. Sì. Né Battiato né io vogliamo scaldare poltrone, vogliamo fare. Sì. Quindi ci giudicherete da quello che però, professore, fare. Importante... Se non sapremo fare nulla, sì. avrete... tutta la libertà di no tutto. Certo, fino adesso non è successo niente perché sono passati pochi giorni, mi pare evidente. No, ma sono succede parecchie cose altre. E che ha fatto stiamo lei? Stiamo lavorando su progetti, ma è inutile parlare di cose prima di fare. No, certo. Io non ho mai parlato, mai in tutta la mia vita ho sì. fatto progetti e ho incominciato a parlarne quando sì. li avevo capiti fino in fondo. Prima non si parla. Scusi, solamente professor... le assicuro che faremo progetti, su questo non c'è dubbio. Beh, ci mancherebbe pure che non faceste progetti, no? Sarebbe bellissimo. Cioè, sarebbe clamoroso. No, scusi, professor Zichichi, però come si fa? Preziosi la Sicilia, preziosi sì. tesori culturali, sì. ma non lo sa nessuno. Beh. La Sicilia, sì. quello che vorremmo noi fare, dunque, quando 50 anni fa sì. io proposi e dici ai miei colleghi stranieri, amici, ma, sì. detto, ma tu sei matto, perché? Ma lì non viene nessuno, quella è terra di mafia, eh. In questi 50 anni 120.000 scienziati, di quelli veri, sono venuti a Enice, mica due gatti, 120.000, di tutti i laboratori del mondo. Quando lei va in un laboratorio, faccia sì. questo senza dirmelo, e se questo laboratorio fa parte di quelli che partecipano allo sì. sviluppo della grande scienza, cioè inventano e scoprono sì. cose, i partecipanti a questo lavoro, sanno cos'è Erice. Crocetta mi ha telefonato, io non sì. l'ho mai visto in vita mia, né mai, sentito, mai. E cosa ha fatto? Ha cosa fatto ha detto? Un discorso di uomo di grande cultura, c'è poi da fare, ma è così. Sapeva tutto, no, ma scusi, di me. Sapeva tutto di lei? Tutto. Sapeva tutto del Laboratorio Nazionale del Sud. Da me creati quando feci notare che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare aveva una ende che vuol dire nazionale, ma si è informato prima. Sotto Roma non c'è nulla. Zichichi, si sarà informato prima su di lei, professor Zichichi. Ah, questo. Oh, va bene, va benissimo. No, che aveva troppe cose. No. Le troppe battaglie cose. Culturali non è che lei le inventa così. No. Scusi, ma lei quanto prenderà da assessore? Prenderà uno stipendio? Ma io non so nulla, assolutamente niente. Ma come non so niente? Beh, ci sarà uno stipendio d'assessore, no? Che ne so io? A stipendio sicuramente no, gli assessori mica sono pagati a stipendio. Come no? Ci sarà, c'è uno... No, ma guarda, a me lo stipendio non interessa. No. Lo dà in beneficenza? Lo lascia lì nelle casse della Sicilia? Ancora meglio. Cioè lei gratis, come Battiato, lo fa gratis? Secondo lei, i suoi ascoltatori sì. si interessano a questo? Come no? Sono interessatissimi. No, le assicuro. No. Invece le dico io una cosa. Mi lei dico una cosa. Dovrebbe dire, sì. ma come mai nel mondo sì. la stragrande maggioranza delle persone colte sì. pensa che Archimede sia greco? E invece è nata a Siracusa. A Siracusa, lo so, come a no? Siracusa non c'è nemmeno una statua su Archimede, il più grande. C'è Piazza Archimede, uomo c'è. Che ha usato il cervello battendo tutti dall'alba della civiltà a Galilei. Non c'è nessuna persona che abbia fatto l'enorme quantità di cose fatte sì. a Archimede. Allora facciamo, scusi, Zichichi. Facciamo una cosa. Ha capito che tutto si muove nel mondo dicendo sì. Datemi un punto fermo e vi solleverò il mondo. Ha calcolato pi greco. Sì. Ha dimostrato che il numero di granelli di sabbia nel mondo non è infinito come sosteneva i pitagori. Sa perché? Perché? Perché non lo sapevano calcolare. Scusi un attimo. Ha inventato il calcolo. Professor Zichichi, perché non facciamo una... Lei non le sapeva. No, io non so un cazzo. Guardi, scusi un attimo Zichichi, perché non facciamo una bella statua? La prima cosa, fa una bellissima statua di Archimede a Siracusa. È fantastico. Beh, questo è un bel progetto, no? No, questo no, questa è una cosa che rende omaggio appunto a un grande siciliano. Facciamo una cosa, se non fosse stato per me, sì, lei avrebbe mai sentito parlare di Ettore Majorana? Ma... un fisico definito da Enrico Fermi genio, tutti zitti. No, ho capito, ma deve governare la regione lei. Scusi un attimo, Zichichi, ma io voglio sapere una cosa, da Ginevra come si fa a guidare l'assessorato? Vedrà. Io andrò spesso, è chiaro che vado e vengo da Palermo. Quante volte conta di andare a Palermo? Ma quanto necessario per evitare di scaldare il poltrone senza fare nulla. Appunto, dico, ma che ne so, più o meno in media, due volte a settimana, una volta a settimana, oppure non è importante stare a Palermo fisicamente? No. Perché assolutamente. No, è importante, perché io farò un giro di tutti i tesori siciliani, su questo non c'è dubbio. Visiterò i tesori della cultura siciliana dimenticati. Mm. Nel mondo nessuno sa della Sicilia cosa c'è in Sicilia. Vabbè, questo però è eccezionale. Oltre a visitare i tesori. Vabbè, cioè, visitare i tesori e fare progetti poi su questi tesori, no? Cioè, immagino. Mica... Valorizzare queste cose. Beh, qualcuno ha già ironizzato, dovrà trovare. Che ironizzano pure. Ma dovrà trovare il centro. Fa piacere, no? Certo. Per ridere, no? Dovrà trovare il centro di gravità permanente di Battiato, questa non è male, eh. Sì, però devo dire una cosa, chi ha scritto quell'articolo ha fatto un pasticcio incredibile, perché ha confuso il linguaggio con la logica e con la scienza. Cioè? Le tre grandi conquiste della ragione, noi siamo gli unici depositari di questo privilegio, abbiamo la ragione. Sì. Grazie alla ragione abbiamo scoperto il linguaggio, la logica e la scienza. Sì. La cultura detta moderna usa solo il linguaggio. Sì. Ecco perché Aldo Grasso può scrivere quelle cose che scrive, confondendo linguaggio, logica e scienza. Cioè, mi sta dicendo? Con il linguaggio si può dire tutto e il contrario di tutto. Ecco come nasce la logica. Sì. Che vuol dire? Fatti chiari, amicizia lunga. Fatti chiari che vuol dire? Assiomi e regole. Sì. Con cinque assiomi Euclide costruisce un monumento che si chiama geometria. Mamma mia. Scusa, tra tutte le logiche possibili, una ce n'è. Seguita da colui che ha fatto il mondo e della scienza. Hai capito, Valenza? Queste tre cose non si possono confondere. Aldo Grasso confonde tutto. Troppo complicato. Comunque, è divertente il suo articolo. No, beh, cioè, dice divertente. Io mi sono molto divertito a leggere. Lei mi risponde o no, non si preoccupi. Scusi un attimo, professor Zichichi. Però io... Parenzo, dimmi. No, dico, professor Zichichi, sono Parenzo, buonasera, mi inchino di fronte a tanta nomenclatura. Le chiedo solo... Non c'è bisogno di inchinarsi. No, io di fronte al professor Zichichi mi inchino. Lui si inchina davanti a tutti. E chi è in macchina e non come? Inchioda durante l'intervista a Zichichi è un pirla, questo io lo dico. Comunque, professore, non ho capito niente di quello. Mi ripete cosa ha detto questo nostro amico? Sì, no, ha detto che chi è in macchina chi è in macchina e non si inchina davanti alla scienza del professor Zichichi è un pirla, questo ha detto. Vabbè, ma comunque questo è il mio grande amico, la ringrazio molto. Scusi, ma lei... Ci ho detto, professore, le chiedo, ma il suo progetto iniziale, ho sentito bene forse, ci ho detto, sì, è quello di girare la Sicilia e valorizzare le... No, le... visitare tutti i tesori, visitare tutti i tesori della Sicilia. Ci ho detto, premesso che è il grande scienziato e che chi non si inchina è un pirla, premesso questo, premesso... Il suo programma di governo è quello di girare la Sicilia. Girare la Sicilia per visitare tutti i tesori della Sicilia. Questo è il piano di governo. Per adesso sì, sembra che voglia fare così. Io che ti devo dire? Ho capito bene? Professor Zichichi. Mi dispiace dirle che ha capito poco. Ha capito poco. No, la Sicilia la conosco benissimo. Vengo dalla Sicilia, io conosco la Sicilia, la mia terra la conosco. Però debbo vedere qual è lo stato dei tesori. Dei tesori culturali della Sicilia, sì, ma... 50-60, ma sono ciascuno un tesoro. Però basta la relazione scritta. Devo andare a vedere. Devo andare a vedere. È lo stato? Parenzo, scusa, è lo stato dei 50-60 tesori della Sicilia. Bisogna andare a vedere. Come realizzare progetti che possano dare della Sicilia sì. quello che alla Sicilia spetta nella cultura moderna. Ma sì. amico mio! Quando la Zanzarina. Eccoci qui, professor Zichichi, scusami. In collegamento con il CERN di Ginevra, assessore ai beni culturali della Regione Sicilia. Ho una notizia sconvolgente. Qual è? La notizia sconvolgente che avevo già annunciato mesi fa e che fu sbeffeggiata da te sì, e da dimmi, altri. Dimmi. È che il Papa sarebbe sbarcato su Twitter. Vabbè, questo è una. Oggi è ufficiale. Vabbè, ma è una notizia aspetta, di oggi. Aspetta, sì. ma non è questa la notizia. Sì. La notizia è che, diciamo, il suo cinguettio è chiocciola. Vabbè, poi... Pontifex sì. sbarcato da poche ore, ha già sai quanti follower il Papa? Vabbè, che ne so, mezzo milione. 200.379. Vabbè, ma è normale. Segue 7 persone. Professor Antonio Zichichi. Ma come Zichichi? No, non credo che segua Zichichi. Sì, però, sì, Pontifex segue ma, Zichichi. Ma non ha cosa, non ha Twitter Zichichi. Lei è su Twitter Zichichi? No. No. E allora sarò un altro Zichichi. Io sono un hardwareista, io progetto e realizzo cose sì. di grande valore per la... l'umanità. Per la, se Alonso guida la macchina, sì. Ci vuole la macchina. Il software è colui che vince le gare, ma senza il motore le Ferrari non potrebbe vincere nulla. E dunque? Io sono un hardwareista, non un software. Non mi interessa il software, mi interessa l'hardware. Io progetto e realizzo cose nuove, per esempio come costruire un campo magnetico di altissima precisione, sì. 100 volte meno caro e 100 volte più efficace nei tempi di quelli noti. Hai capito? Per dire, no? Sì, certo. Oppure qual è il modo per realizzare. Ma in tutto questo, come trova il tempo? Come al di sopra di qualunque, che è un sì. record mondiale. Come trova, il tempo, come trova il tempo di fare l'assessore? Dato che lei è non impegnato. Veda, quando io ero un ragazzino, sì. Perché ero popolare? Perché passavo i miei compiti ai miei amici e ne facevo per tutti. È la velocità che conta. Se lei riesce a risolvere problemi più velocemente di altri. Cioè lei sta dicendo che non è che è al di sopra della media, è molto al di sopra della media di una persona. No, io non sto dicendo questo. Beh, sto sì, dicendo che potrebbe darsi che sia questo il motivo. Beh, no, ma lei mi sta dicendo. Ma a riflettere. No, ma come per carità, ma... lei, come spiega lei che certe cose avvengono e altre no? Appunto, dico, lei evidentemente è dotato di una intelligenza, di una rapidità soprattutto, no, nel risolvere no, non problemi. Mi non mi no. Beh, scusi, se dice che risolveva problemi sì, anche sì, per... giusto. Beh, è lei che ha detto risolveva problemi anche per gli altri. Io ho avuto dei bravissimi professori. Certo, sempre da quello si parte, questo, sempre da quello si parte. E questo è fondamentale. Ha sì. avuto la fortuna di avere... Poi bisogna avere qualcosa di innato però nel cervello, professore. Ognuno di noi nasce con un cervello. Certo. E questo cervello, grazie alla risonanza magnetica nucleare, sì. alla quale io ho contribuito fortemente 50 anni fa. E certo. Vabbè, e... grazie alla risonanza magnetica nucleare oggi si studia il cervello sì. e si è scoperto che se uno ha la mania di fare per dire sì. Il pittore sì. C'è una parte del cervello attiva, se invece ama la matematica un'altra parte del cervello, se ama la musica è un'altra parte sì. del cervello. Ognuno di noi nasce con un certo cervello Quando il cervello sì. è sviluppato per e il suo com'è? Fare pittura, quello è bene che faccia il pittore. Se invece per la matematica, è bene fare la matematica sì. e così via. Però ci sono cervelli poi che hanno... nasce con un certo cervello. Certo. Professore, scusi un attimo, mi dica tanto la verità. Visto che lei viene da 24 ore, devo dire, io il numero di anni non è 84, è 83 appena compiuto. 83 appena compiuto. Non mi dato un anno in più, perché se no... No, per carità. Scusi un attimo, professore, sai Parenzo che il professor Zichichi è un grande fautore sostenitore dell'energia atomica. No, guardi, l'energia atomica, lei sbaglia, è nucleare. Nucleare, no, scusi, nucleare. Il fuoco delle candele è sì. atomico. Non è sì, sì, lei ha ragione, però le voglio fare una domanda, la professore. La bomba atomica, sa perché sì. la chiamarono atomica? Perché? Perché nessuno aveva ancora capito che esisteva la tecnologia nucleare. Questo a me l'ha detto il grande Wigner, membro illustre sì, certo. Scusi un attimo, però lei che è a favore dell'energia nucleare? È sbagliato, non è energia atomica, è energia nucleare. Nucleare, scusi, ho sbagliato. È l'energia nucleare. Nucleare. Lei sì. metterebbe delle centrali nucleari in Sicilia? Sarebbero sicure, sì? Aspetti, sarebbe, veda, la sicurezza delle centrali sì. dipende dalle scelte che determinano chi comanda in quel settore. No, per capito. Esempio, però professore, lei Manhattan, no. Pensi, nel 1940 non c'era nulla di nucleare, non esisteva. No, ma secondo lei, nucleare. Secondo lei, fosse per in lei. In 5 anni sì. Hanno costruito in 5 anni sì. Tecnologie che hanno portato ai reattori sì. Tecnologia nucleare di pace e alle bombe, ma tecnologia nucleare di guerra. Certo. In 5 anni non è mai successo un incidente. Dico, ma fosse per lei, fosse per lei. Ai reattori e alle bombe. Certo, fosse... Come mai le sega Fukushima, Chernobyl, Mile Island? È quello che il fattore umano, il fattore umano. Il fattore umano. La tecnologia nucleare è stata messa in mano ai irresponsabili. Irresponsabili. Professor Zichichi, una risposta molto semplice. Se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, lei sarebbe contento? Felice, no, contento. Però attenzione, centrali nucleari controllate. Eh beh, certo, mica abbandonate. Da veri scienziati, non certo. Per esempio, avremmo risolto un sacco di problemi, dica la verità, avremmo risolto un sacco di problemi. L'energia nucleare dà a quella forma di materia vivente chiamata sì. Io e lei sì. Un milione di volte. Capito? Lei immagina avere una macchinetta. Ma lei la metterebbe alle porte di Palermo una centrale? Aspetti, sì, alle porte di Palermo, la metterebbe o no? Immagini di avere una macchinetta, mette un euro ed esce sì. Un panino. Sì. Un'altra macchinetta identica, sì. Mette un euro ed escono un milione di panini. Quale sceglierebbe? Un lei? Milione di panini. E allora, la metterebbe alle porte di Palermo la centrale? La metterebbe alle porte di Palermo? Però è già in mano a veri scienziati. La metterebbe alle porte di Palermo, sì o no? La metterebbe alle porte di Palermo la centrale? La devo lasciare, l'abbraccio. Se vivessimo. La devo lasciare, l'abbraccio fortissimo. Se vuole la richiamo domani da Ginevra, grazie. Mi hanno portato qua, non so cosa dobbiamo fare. Perché ha deciso di essere qua oggi? Non lo so. Come non lo sa? Non so niente. Sì, è vero, soprattutto per quello lì, mi piace venire. Quello lì. È venuto popolare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sì, tu sei un cretino e un criminale, guarda.